Salve a tutti, io sono Rosy, una studentessa di lingue, e ho appena creato il mio primo podcast, e spero non sia l'ultimo. Ho deciso di crearlo perché credo nelle potenzialità che questo strumento regala alla gente, potenzialità che possono essere sfruttate da chiunque per qualsiasi motivo. Gli ambiti in cui un podcast può essere utile sono tantissimi. Io ho studiato in particolar modo l'ambito della didattica e dell'istruzione, perché un podcast può essere un supporto utilissimo per gli insegnanti di tutte le discipline. Ritengo anche che sia un modo per stimolare l'interesse degli studenti verso le materie di studio e per creare un'atmosfera collaborativa all'interno della classe. Nella creazione di un podcast, il docente assume il ruolo di regista, il quale dovrà coinvolgere ogni alunno affidandogli un compito specifico, alleggerendo e agevolando il carico scolastico. Ciò contribuisce a realizzare gli obiettivi di socializzazione e crescita personale che sono da sempre alla base della formazione scolastica.